Nei tuoi occhi una seconda luna, forse proprio quella da cui vieni tu. Prova un atterraggio di fortuna per non cadere giù. Colibri, seguivi un colibrì che ti ha portato dalla giungla a una metropoli. Colibri, seguivi un colibrì. Sai anche a me cadere fa paura, però noi siamo qui. Lo sai che come un sole ti seguirei verso cieli più limpidi. Ora tu cosa immagini se ti dico vorrei farti volare fra gli alberi in mezzo ai fiori bellissimi per poter essere liberi come colibri. Seguivi un colibrì che ti ha portato dalla giungla a una metropoli. In mezzo al traffico stasera abbasso il finestrino per guardare su. Passa in mezzo al cielo una cometa. Vabbè, so che eri tu. Ehi, colibri, seguivi un colibri che ti ha portato dalla giungla a una metropoli. Credimi, seguivi un colibri. Seguirei verso mari più limpidi. Ora tu cosa immagini se ti dico vorrei farti volare fra gli alberi in mezzo ai fiori bellissimi per poter essere liberi. Portami lontano dove sei tu. Quando ho immaginato il futuro c'eri tu. Vorrei un'altra città, correre davanti a te. Sarai confusa ma sembrerà tutto possibile. Sembri nata per sorridere, lo sai. Che anch'io vorrei volare fra gli alberi, in mezzo ai fiori bellissimi, come un colibrì. Colibri, liberi.